Viola, chi è? Lo senti? Bella maggioranza allora, vai, se lo senti. E beh, la parte c'è le orecchie. Ma se sono dormi così. Chi è la parte? A parte, Carlaretti. C'è qualcuno su questo canale, avanti? Ho morti di sonno, ci siete, sì o no? Uranio, ci sei Uranio? Attento Uranio, ci sei in ascolto? Attento Uranio, ci sei in ascolto? Tutti morti e puzziosi. Marco, ci sei? Attento Marco. Sul cimitero siete? C'è qui canale 10?